Credo che sia un'ottima risposta che il Comune ha dato a una sollecitazione dal basso, nata dalla nostra proposta di fare in modo che quel giorno la squadra israeliana non partecipasse al giro, che comunque non fosse possibile una passerella di questa squadra che, attenzione, secondo me è molto importante sottolineare, non in quanto israeliana e basta, ma è una squadra costruita ad hoc per essere uno strumento di indirizzo politico dal suo proprietario, che fa diplomazia sportiva, come da lui stesso detto, che è stato uno dei suggeritori di Trump per l'attacco all'Iran, che rappresenta l'insediamento di Trump stesso e di cui Netanyahu tutte le volte fa menzione nei suoi tweet. Quindi non parliamo di una squadra slegata dalle politiche del governo israeliano, è una squadra dichiaratamente sionista che ha scelto di appoggiare da sempre il proprio governo e che quindi in questo momento abbiamo lanciato questa proposta che quel giorno non ci fossero, che siamo ben contenti che il Comune abbia raccolto anche alla luce, secondo me, della grandissima manifestazione di lunedì. Ora attendiamo chi gestisce la corsa che si esprima. Dunque, in base alla tua risposta, si deduce che la tua posizione è ben netta per quanto riguarda le persone che pensano che lo sport dovrebbe rimanere neutrale in merito a queste vicende. Beh, lo sport non è mai neutrale, lo sport è dentro la nostra società, è dentro la nostra cultura e quindi fa delle scelte. Loro, la Israel Premier Tech, nasce proprio con l'obiettivo di fare sport washing dentro, per Israele, dentro il ciclismo. Quindi davanti a un'evidenza politica di questa squadra, giustamente si risponde facendo politica, quindi scegliendo anche di dire che quel giorno deve essere messo in atto un boicottaggio di questa squadra. Vista la tua esperienza con giovani atleti di contesti culturali diversi, che risonanza avrebbe un'eventuale esclusione di Israel Premier Tech dal mondo sportivo, sia a livello locale e ovviamente nazionale? Credo che sarebbe sicuramente importante perché entrerebbe dentro l'idea che lo sport e quindi la società possano, attraverso anche dei piccoli gesti simbolici, aver cura delle relazioni di quello che succede nel mondo, cioè di prendere posizione reale davanti a un qualcosa in cui per tanto tempo ci siamo sentiti inermi, no? Quasi impossibilità di poter intervenire, anche perché il governo Meloni tutto fa tranne che mettere bocca su quello che sta accadendo a Gaza. Secondo me è molto importante la consapevolezza di una cittadinanza che riesce a esprimere questo malcontento e che riesce a boicottare questo genere di eventi, quindi è assolutamente positiva.